sono degli incontri che noi abbiamo proposto insieme alla provincia di Bologna. Avevamo già l'anno scorso fatto una piccola rassegna che si chiamava Crinali. Quest'anno è stata ampliata con un numero molto maggiore di iniziative su tutto l'Appennino bolognese. Sono dei concerti che noi facciamo con artisti di vario ambito musicale. La cosa per noi importante è che all'interno di questi concerti ci sia la presenza dei nostri richiedenti asilo e dei ragazzi del territorio, per cui ogni tappa rappresenta un momento di incontro tra giovani del comune, del territorio dove viene fatta questa iniziativa, che sono 10 concerti appunto. Più importante più sarà con Paolo Freso, la Rocchetta Mattei, l'11 di luglio, ma ogni concerto ha tutti gli altri artisti sono artisti molto qualificati e lavorano appunto con un laboratorio musicale sia con i giovani del territorio che con i richiedenti asilo, alcuni richiedenti asilo che hanno dimostrato interesse a partecipare a queste iniziative. Già l'iniziativa è stata fatta in due sedi, ha avuto un notevole interesse sia a Castel di Casio sia Madonna dei Fornelli, dove hanno appunto collaborato giovani del territorio insieme a ospiti presenti nelle nostre strutture. L'Aimomo ha un'accoglienza diffusa un po' su tutto il territorio dell'Appennino e appunto per questo riteniamo importante che le giovani generazioni si parlino attraverso uno strumento fondamentale che è quello della musica, dove si mette insieme esperienze di tipo molto diverso. Quindi tra i musicisti ci sono anche dei richiedenti asilo? Tra i musicisti ci sono anche dei richiedenti asilo, cioè ogni laboratorio presenta alcuni richiedenti asilo, quindi proprio l'idea dell'integrazione che noi vogliamo portare e della società interculturale che noi vogliamo appunto proporre è quella di far sì che le persone che stanno all'interno delle strutture, che già fanno tutta una serie di esperienze sul territorio, molti fanno dei tirocini, alcuni lavorano, altri, insomma, un concetto di integrazione che deve essere forte. All'interno di queste proposte è venuta l'idea proprio di far dialogare le persone attraverso la cultura, e la musica certamente è una delle espressioni migliori, insomma. E quindi appunto giovani richiedenti asilo che stanno nelle strutture di riferimento un po' del comune dove si fa l'attività, insieme a dei giovani che partecipano, a giovani musicisti che partecipano a questi laboratori, poi suonano insieme al maestro, che è un po' il referente dell'iniziativa. Tutto questo verrà poi portato alla fine con un grande concerto dove verranno proposte le esperienze più significative di questa kermesse. Abbiamo modelli di accoglienza come quelli di Riace che hanno rivitalizzato territori che erano all'abbandono. L'Appennino per certi versi vive lo stesso problema. Come viene percepita dalla popolazione la presenza appunto di richiedenti asilo di queste persone? Noi abbiamo fatto un'esperienza significativa all'Ama di Renmo, dove abbiamo rivitalizzato una struttura della cartiera di Marzabotto, che era un luogo dismesso dove non c'era nulla, e lì abbiamo fatto con le Nazioni Unite un centro per la moda etica, dove vengono promossi laboratori di pelletteria e di tessuto e dove delle persone vengono formate con un programma poi anche di rientro nei paesi di origine. Quindi l'idea che su questi territori possono essere fatte iniziative che coinvolgono una popolazione che certamente all'inizio è molto paurosa, perché di fronte alla novità sempre c'è una certa paura. Nel momento poi in cui le cose vengono portate avanti in maniera il più possibile strutturata e in qualche modo organizzata, noi dobbiamo dire che di problemi non ne abbiamo avuti, abbiamo anche avuto, soprattutto alla Madireno, dove siamo presenti con questo progetto, che è un progetto abbastanza molto importante, insomma appunto anche finanziato dall'Unione Europea con l'ausilio delle Nazioni Unite, una attività che vede la popolazione attivamente presente.